Il terzo anello, ad alta voce. Piero Baldini legge Il piacere, di Gabriele D'Annunzio. 3 ottobre. Andiamo a Vicomile. Delfina è in letizia. La giornata è religiosa. Oggi è la festa di Maria Vergine del Rosario. Coraggio, anima mia. 4 ottobre. Nessun coraggio. La giornata di ieri fu per me così piena di piccoli episodi e di grandi commozioni, così lieta e così triste, così stranamente agitata, che io mi smarrisco nel ricordarla. E già tutti gli altri ricordi impallidiscono e si dileguano innanzi a uno solo. Dopo aver visitato la torre ed aver ammirato lo stensorio, ci accingemmo a ripartir da Vicomile verso le 5:30. Francesca era stanca e le piacque piuttosto che rimontare a cavallo tornare col mail coach. Noi seguimmo per un tratto, cavalcando, ora indietro, ora ai lati. Era una sera tranquillissima, senza vento. Il sole stava per cadere dietro il colle di Rovigliano, in un cielo tutto rosato, come un cielo dell'estremo oriente. Quando la pineta fu in vista, egli mi chiese: «Attraversiamo». Senza aspettare la mia risposta, egli disse a Francesca: «Noi attraversiamo la pineta, ci ritroveremo sulla strada, al ponte del convito, dall'altra parte». E trattenne il cavallo. Perché acconsentii? Perché entrai con lui? Io avevo negli occhi una specie di abbagliamento. Mi pareva di essere sotto l'influenza di una fascinazione confusa. Mi pareva che quel paesaggio, quella luce, quel fatto, tutta quella combinazione di circostanze non fossero per me nuovi, ma già un tempo esistiti, quasi direi in una mia esistenza anteriore, ed ora riesistenti. L'impressione è inesprimibile. Mi pareva dunque che quell'ora, che quei momenti, essendo stati già da me vissuti, non si svolgessero fuori di me, indipendenti da me, ma mi appartenessero, ma avessero con la mia persona un legame naturale e indissolubile, così che io non potessi sottrarmi e riviverli in quel dato modo, ma dovessi anzi necessariamente riviverli. Io avevo chiarissimo il sentimento di questa necessità. L'inerzia della mia volontà era assoluta. Era come quando un fatto della vita ritorna in un sogno, con qualche cosa di più della verità e di diverso dalla verità. Non riesco nemmeno a rendere una minima parte di quel fenomeno straordinario. E una segreta rispondenza, un'affinità misteriosa era tra l'anima mia e il paesaggio. L'immagine del bosco nelle acque degli stagni pareva infatti l'immagine sognata della scena reale. Ciascuno stagno pareva essere un breve cielo che si ingolfasse in un mondo sotterraneo, un firmamento di luce rosea disteso sulla terra oscura, più infinito dell'infinita notte e più puro del giorno, dove gli alberi si sviluppavano allo stesso modo che nell'aria superiore, ma di forme e di tinte più perfetti che qualunque altro di quelli in quel luogo ondeggianti, e vedute soavi, quali mai non si videro nel nostro mondo di sopra, v'eran dipinte dall'amor delle acque per la bella foresta, e tutta la loro profondità era penetrata di un chiarore elisio, di un'atmosfera senza mutamento, di un vespro più dolce che quel di sopra. Da che lontananza del tempo era venuta a noi quell'ora. Andavamo al passo, nel silenzio. I rari gridi delle gazze, l'andatura e il respiro dei cavalli non turbavano la tranquillità che pareva di minuto in minuto farsi più grande e più magica. Perché volle egli rompere la magia da noi stessi generata? Egli parlò. Egli mi versò sul cuore un'onda di parole ardenti, folli, quasi insensate, che in quel silenzio degli alberi mi sbigottivano, poiché prendevano qualche cosa di non umano, qualche cosa di indefinibilmente strano e affascinante. Non fu umile e sottomesso come nel parco, Non mi disse le sue speranze timide e scorate, le sue aspirazioni quasi mistiche, le sue tristezze incurabili. Non pregò, non implorò. Egli aveva la voce della passione, audace e forte. Una voce che io non gli conosceva. Voi mi amate. Voi mi amate. Voi non potete non amarmi. Ditemi che mi amate. Il suo cavallo camminava rasente al mio. Ed io mi sentivo da lui sfiorare e credevo anche di sentire sulla guancia il suo alito, l'ardore delle sue parole. E credevo di venir meno per il grande orgasmo e di cadergli fra le braccia. Ditemi che mi amate. E gli ripeteva ostinatamente, senza pietà, ditemi che mi amate. Nella terribile esasperazione datami dalla sua voce incalzante, io credo che dissi, non so se con un grido o con un singulto fuori di me, vi amo. «Vi amo, vi amo!» E spinse il cavallo di carriera per la via appena tracciata, nella densità dei tronchi, non sapendo che facessi. 5 ottobre. Egli ora sa che io l'amo. Lo sa dalla mia bocca. Io non ho più scampo che nella fuga. Ecco dove son giunta. Quando mi guarda, ha in fondo agli occhi un luccicore singolare che prima non aveva. Oggi, in un minuto in cui Francesca non era presente, mi ha presa la mano facendo l'atto di baciarmela. Io son riuscita a ritrarla. Ed ho visto le sue labbra agitate da un piccolo tremito. Ho sorpreso sulle sue labbra in un attimo, quasi direi, la figura del bacio non iscoccato. Un'attitudine che mi è rimasta nella memoria. E non mi va più via, non mi va più via. 6 ottobre. Il 25 di settembre, sul sedile di marmo, nel bosco degli albatri, egli mi disse: «Io so che voi non mi amate e che non potete amarmi». E il 3 di ottobre: «Voi mi amate, voi mi amate. Voi non potete non amarmi». In presenza di Francesca m'ha chiesto se gli permettevo di fare uno studio delle mie mani. Ho consentito. Incomincerà oggi. E io sono trepidante e ansiosa, come se dovessi prestare le mie mani a una tortura sconosciuta. Notte è incominciata la lenta, soave, indefinibile tortura. Disegnava a matita nera e a matita sanguigna. La mia mano destra posava sopra un pezzo di velluto. Mi pareva di non offrire alla sua indagine una mano nuda, sebbene una parte nuda dell'anima, e che gli me la penetrasse con lo sguardo sino in fondo, scoprendone tutti i più riposti segreti. 7 ottobre. Io non ho che un solo pensiero, un solo desiderio, un solo proposito: partire, partire, partire. Sono all'estremo delle forze. Io languo, io muoio del mio amore, e l'inaspettata rivelazione moltiplica le mie mortali tristezze. Che pensa ella di me? Che crede? Ella dunque lo ama, e da quando? Ed egli lo sa, o non ne ha pure un sospetto? Dio mio, Dio mio, la ragione mi si smarrisce, le forze mi abbandonano. Il senso della realtà mi sfugge. Esser disconosciuta da lei, dalla mia migliore amica, da quella che m'è più cara, da quella a cui il mio cuore fu sempre aperto, è la suprema amarezza. È la prova più crudele riservata da Dio a chi ha fatto del sacrificio la legge della sua vita. Bisogna che io le parli prima di partire. Bisogna che ella sappia tutto da me, che io sappia tutto da lei. Questo è il dovere. Notte. Ella verso le 5 mi ha proposto una passeggiata in carrozza per la via di Rovigliano. Siamo andate sole in una carrozza scoperta. Io pensava, tremando, ora le parlerò. Ma il tremito interno mi toglieva ogni coraggio. Aspettava ella forse che io parlassi? Non so. Siamo rimaste a lungo taciturne, ascoltando il trotto eguale dei due cavalli, guardando gli alberi e le siepi che limitavano la via. Di tratto in tratto, con una frase breve o con un cenno, ella mi faceva notare una particolarità del paese autunnale. Tutto l'umano incanto dell'autunno si diffondeva in quell'ora. I raggi obliqui del vespro accendevano per la collina la sorda e armoniosa ricchezza dei fogliami prossimi a morire. per il soffio costante del greco nella nuova luna, un'agonia precoce prende gli alberi delle terre litoranee. L'oro, l'ambra, il croco, il giallo di solfo, l'ocra, l'arancio, il bistro, il rame, il verderame, l'amaranto, il paonazzo, la porpora, le tinte più disfatte, le gradazioni più violente e più delicate si mescolavano in un accordo profondo che nessuna melodia di primavera passerà mai di dolcezza. Indicandomi un gruppo di robinie, ella ha detto: «Guarda, se non sembrano fiorite!» Già secche, biancheggiavano d'un bianco un po' roseo, come grandi mandorli di marzo, contro il cielo turchino che già pendeva nel cinerino. Dopo un intervallo di silenzio ho detto io, per cominciare: «Manuel verrà certo sabato. Aspetto per domani il suo telegramma. E domenica partiremo col treno della mattina. Tu sei stata tanto buona con me in questi giorni. Io ti son tanto grata». La voce mi tremava un poco. Una immensa tenerezza mi gonfiava il cuore. Ella m'ha presa la mano e l'ha tenuta nella sua senza parlarmi, senza guardarmi. E siamo rimaste a lungo taciturne, tenendoci per mano. Ella m'ha chiesto: «Quanto tempo ti tratterrai da tua madre?» Io le ho risposto: «Sino alla fine dell'anno, spero. E forse più». «Tanto tempo?» Di nuovo abbiamo taciuto. Sentivo già che non avrei avuto il coraggio di affrontare la spiegazione, ed anche sentivo che era men necessaria ora. Mi pareva che ella ora mi si riavvicinasse, mi intendesse, mi riconoscesse, diventasse la mia sorella buona. La mia tristezza attraeva la sua tristezza, come la luna attrae le acque del mare. La carrozza ha raggiunto la strada di Schifanoia, riprendendo il trotto. La luna, cerchiata di aloni, splendeva come un opale in un latte diafano. Una catena di nuvole sorgeva dal mare e si svolgeva a poco in forma di globi, come un fumo volubile. Il mare mosso copriva col suo rombo tutti gli altri rumori. Non mai, penso, una più grave tristezza strinse due anime. Io ho sentito sulle mie gote fredde un tepore e mi sono rivolta a Francesca per vedere se ella si fosse accorta che io piangevo. Ho incontrato i suoi occhi pieni di pianto e siamo rimaste mute l'una accanto all'altra con la bocca serrata, stringendoci le mani, sapendo di piangere per lui. E le lacrime scendevano a goccia, silenziosamente. In vicinanza di Schifanoia io ho asciugato le mie, ella le sue. Ciascuna nascondeva la propria debolezza. Egli era ad attenderci nell'atrio. Perché ho provato in fondo al cuore, verso di lui, un vago senso di diffidenza, come se un istinto mi avvertisse di un oscuro danno. Quali dolori mi riserva l'avvenire! Potrò io sottrarmi alla passione che m'attira abbacinandomi? Pure quanto bene mi hanno fatto quelle poche lacrime. Mi sento meno oppressa, meno riarsa, più fidente. E provo una tenerezza indicibile nel ripetere da me sola l'ultima passeggiata. Mentre Delfina dorme felice di tutti i folli baci che le ho dati nella faccia. E mentre sorridono su vetri le malinconie della luna che dianzi mi ha vista piangere. 8 ottobre, notte. Mi par di non aver più una goccia di sangue nelle vene. Mentre salivo le scale mi pareva che ad ogni sforzo per superare un gradino il sangue e la vita mi sfuggissero da tutte le vene aperte. Sono debole, come una morente. Coraggio, coraggio! Ancora poche ore rimangono. Manuel giungerà domattina, partiremo domenica. Lunedì saremo da mia madre. Ho reso dianzi a lui due o tre libri che mi aveva prestati. Nel libro di Percy Shelley, alla fine di una strofa, ho inciso con l'unghia due versi e ho messo un segnale visibile alla pagina. I versi dicono: «E dimenticami, perché io non posso mai essere tua. 9 ottobre, notte, tutto il giorno egli ha cercato un momento per parlarmi. La sua sofferenza era manifesta. E tutto il giorno io ho cercato di sfuggirgli perché egli non mi gittasse nell'anima altri semi di dolore, di desiderio, di rimpianto, di rimorso. Ho vinto! Sono stata forte ed eroica. Vi ringrazio, mio Dio. Questa è l'ultima notte. Domattina partiremo. Tutto sarà finito. Tutto sarà finito? Una voce mi parla nel profondo e io non comprendo, ma so che mi parla di sciagure lontane, ignote, eppure inevitabili, misteriose, eppure inesecrabili come la morte. L'avvenire è lugubre come un campo pieno di fosse già scavate e pronte per ricevere cadaveri. E sul campo qua e là ardono pallidi fanali che io appena scorgo e non so se ardano per attrarmi nel pericolo o per mostrarmi una via di salvezza. Ho riletto il giornale attentamente, lentamente, dal 15 di settembre, dal giorno che io giunsi. Quanta differenza da quella prima notte a quest'ultima. Io parto. Che accadrà di lui quando io sarò lontana? Che accadrà di Francesca? Il mutamento di Francesca è pur sempre incomprensibile, inesplicabile. È un enigma che mi tortura e mi confonde. Ella lo ama. E da quando? Ed egli lo sa. Anima mia, confessa la nuova miseria. Un'altra infezione ti avvelena. Tu sei gelosa. Io sono preparata ad ogni più atroce sofferenza. Io so il martirio che mi aspetta. Io so che i supplizi di questi giorni non son nulla al confronto dei supplizi prossimi, della terribile croce a cui i pensieri miei legheranno l'anima mia per divorarla. Io son preparata. Chiedo soltanto una tregua, o Signore. Una breve tregua per le ore che rimangono. Avrò bisogno di tutta la mia forza. Domani. Come stranamente, nelle diverse vicende della vita, talvolta le circostanze esterne si rassomigliano, si riscontrano. Stasera nella sala del vestibolo mi pareva d'essere tornata alla sera del 16 settembre, quando cantai e sonai, quando egli incominciò ad occuparmi. Anche stasera io sedevo al pianoforte e la stessa luce cupa illuminava la sala e nella stanza attigua Manuela e il marchese giocavano ed ho suonato la gavotta delle dame gialle. Certe dame biondette, non più giovani ma appena uscite di giovinezza, vestite di una smorta seta color di un grisantemo giallo, la danzano con cavalieri adolescenti vestiti di rose un po' svogliati, i quali portano nel cuore l'immagine d'altre donne più belle, la fiamma di un nuovo desio. E la danzano in una sala troppo vasta, che ha tutte le pareti coperte di specchi. La danzano sopra un pavimento intarsiato d'amaranto e di cedro, sotto un gran lampadario di cristallo, dove le candele stanno per consumarsi e non si consumano mai. E le dame hanno nelle bocche un poco appassite un sorriso tenue ma inestinguibile, e i cavalieri hanno negli occhi un tedio infinito e un oriuolo a pendolo segna sempre un'ora e gli specchi ripetono, ripetono, ripetono sempre le stesse attitudini e la gavotta continua, continua, continua, sempre dolce, sempre piana, sempre uguale, eternamente. Come una pena. Quella malinconia m'attira. Non so perché la mia anima tende a quella forma di supplizio. È sedotta dalla perpetuità di un dolore unico, dalla uniformità, dalla monotonia. Accetterebbe volentieri per tutta la vita una gravezza enorme, ma definita e immutabile, invece della mutabilità, delle imprevedibili vicende, delle imprevedibili alternative. Pur essendo abituata alla sofferenza, ha paura dell'incerto, teme le sorprese, teme gli urti improvvisi. Mio Dio, da che mi viene una paura così cieca? Assicuratemi voi, metto la mia anima nelle vostre mani. E ora, basta questo tristo vaneggiare, che purtroppo addensa l'angoscia invece di alleviarla. Ma io so già che non potrò chiudere gli occhi, sebbene mi dolgano. Egli certo non dorme. Quando io sono venuta su, egli, invitato, stava per prendere il posto del marchese al tavolo del gioco, di fronte a mio marito. Giocano ancora? Forse egli pensa e soffre giocando. Quali saranno i suoi pensieri? Quale sarà la sua sofferenza? Non ho sonno, non ho sonno. Vado sulla loggia. Voglio sapere se giocano ancora o se egli è tornato nelle sue stanze. La notte è lucida e umida. Tremo tutta. Io non so ridire l'impressione quasi tragica che mi fanno quelle finestre illuminate, dietro le quali i due uomini giocano, l'uno di fronte all'altro, nel gran silenzio della notte, appena interrotto dai singhiozzi spenti del mare. E giocheranno, forse, fino all'alba, se gli vorrà compiacere la terribile passione di mio marito. Saremo in tre a vegliare fino all'alba, senza requie, per la passione. Ma che pensa egli? Qual è la sua tortura? Io non so che darei in questo momento per poterlo vedere, per poter restare fino all'alba, a guardarlo, anche attraverso i vetri, nell'umidità della notte, tremando come tremo. I pensieri più folli mi balenano dentro e mi abbagliano rapidi, confusi. Ho come un principio di cattiva ebbrezza. Provo come una istigazione sorda a far qualcosa d'audace ed irreparabile. Sento come il fascino della perdizione. Mi toglierei, sento dal cuore, questo peso enorme. Mi toglierei dalla gola questo nodo che mi soffoca. Se ora, nella notte, nel silenzio, con tutte le forze dell'anima, io mi mettessi a gridare che l'amo, che l'amo. Piero Baldini ha letto Il piacere di Gabriele D'Annunzio, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Annalisa Gaudenzi. Il terzo anello @rai.it.